No, giusto, sto finendo di Se senti delle scariche perché i cavi sono collegati così, perché questo c'ha un attacco un po' particolare, questo 5024. Lo so, ce l'ho anch'io, 5024, ok. Sì, già è discreto, dai, c'è il microfono suo, normale, solo che poi tu c'hai messo anche l'eco, dove l'hai buscato l'eco? No, questo è un microfono, aspetta che sto preparando il video. Allora, eccolo qua, è messo malissimo dentro, insomma, ho sostituito un bel po' di roba per farlo funzionare, neanche in ricezione andava, porca miseria. No, questo è un microfono già amplificato, il Proxel, quello che ha le due rotelline dietro dell'eco. Allora, ripristinata la potenza. Ecco qua, vai Giulio. Sì, già va bene, se parli leggermente più lontano anche va meglio, sicuramente, è forte, molto forte. Perché sono tutti i capi così, piazzati con i coccodrilli, così che... vediamo un po'. Ah, allora abbasso anche l'amplificazione? Così, anche come adesso va bene, così come adesso va benissimo. Presente che non attacchi la bocca tutto il microfono, almeno 20 centimetri. Vai, vedi un po', 15 centimetri, aspetta che sono andando nel video. 15 centimetri sono adesso, bene va? Sì, beh, così si è un po' abbassata, però già va bene lo stesso. Già va bene, la radio già è buona, dai. Prova a aumentarlo, si può aumentare della potenza parlando sempre a quella distanza però. Guarda così, c'è... cosa è successo? Lasciala così che va bene. Sì, vabbè, il microfono l'ho messo così giusto per farlo uscire. C'è anche sul microfono originale, ma lo devo tutto ripristinare, perché dentro c'è la scatola con il trasformatorino, tutti i fili staccati. C'è da ripristinare l'originale su, che tra l'altro è anche messo bene esternamente, l'originale a toccare. E qui salda così, salda lo spinotto così che va bene. Stavo dicendo, l'originale suo è, il microfono originale suo è precompresso, è quello che magari non ce l'hai, nemmeno io ce l'ho, ma ne avevo adattato uno normalissimo e va bene lo stesso, non c'è problema. Ah, vabbè, lo devo ripristinare, però. Non però... Se mi hai detto che ci sono tutti i coccodrilli, metti il trasalda, lo filotto e non se lo veda più. E poi così eviti anche di farmi sentire le scariche, mentre muovo il microfono. No, perché questo non è... No, questo è di un altro baracchino, il microfono. Ah, vabbè, è ripristinato il suo. Però siccome c'è un altro... No, c'è altri due... No, altri due radio da fare. E così che adesso per oggi il microfono lo faccio, me lo faccio domani. Che c'è un casino qua. Hai visto il video? La guerra ha fatto questo apparecchio. Sì, già, stava sapendo che bene. Comunque se ce la fanno la mattina, io ce l'ho un giorno, io ce l'ho, se lo tocca il 50-24 ce l'avrò una cinquantina d'anni già, più o meno, all'incirca così. E funziona sempre, non è che non funziona. Anzi, io gli avevo fatto anche una modifica, gli avevo fatto, perché non c'era il canale 23, e gli avevo messo un interrotturino piccolino, ma piccolo veramente. E avevo tolto l'11 alfa o cosa era e per avere il canale 23 e avevo fatto anche quella modifica e già era riuscita, poi non l'ho più usato, gli ho buttato la macchina, non l'ho più usato. E va, questo per accontentare, non ne volevo fare. Adesso dovrò solo regolare lo smitter, lo smitter e basta. Ed è fatto. Sì, anche quello non è che lo smitter lascia il tempo che trova anche quello. Troppo vecchi, ma pare che troppo vecchi o lui, no, non ne vale la pena, sì, è così per divertimento uno si sorprende la giusta, ma tutto sommato poi non viene voglia, perlomeno a me non mi viene voglia nemmeno di usarlo, penso un po'. Ah, infatti non è roba mia, devo fare anche quello di sotto, non so se l'hai visto nel video, da Jackson, aspettando il marino nei pezzi. E io devo fare anche quello, poi ne aggiù un altro. Ok, è un altro, sempre uguale, 24-24 sempre. No, aspetta che ti cos'è, tipo per carogginita, aspetta. Vedi adesso come si è arrivato in quest'ultimo passaggio, si è arrivato benissimo con loro, probabilmente hai trovato la distanza giusta come parlare, perché è sempre subordinata all'applicazione del microfono con la distanza appunto. Come hai parlato adesso era l'ideale, proprio bellissima. In diretta a un... Oh, sì. Sto facendo la foto dell'altro, ma ti pone le mani in casa. Ehi, vabbè. Guarda, io adesso... Non so dove, sì. L'ho visto questi ultimi giorni, l'avevo visto dove l'avevo messo. Ma non lo trovo, tendrei che non me la fatti in tanto la sua 23 canali, per cui non ne vale la pena nemmeno toglierlo. Ma io vado a posto di questo, aspetta ancora non so neanche se accende. Ok. Sì, se vuoi dall'altro che praticamente è lo stesso baracchino. Quello della cosa era, aspetta, che era 50-30, sì, mi sembra della Midland, che è lo stesso praticamente, né più né meno, con la differenza che il tocaia, quel gommone avanti, tutto, mentre l'altro invece era solo la carcassa e basta, però come modulazione, come cosa era uguale, 50-30, sì, della Midland, cioè, no, della... Aspetta, di chi era? Boh, non me lo ricordo. Forse era della Sommer Cup, non me lo ricordo, vabbè, dai. Siamo questi. Siamo a Disney Ugain, là. Ti stai giocando con tutti questi baracchini, ma te l'hanno mandato da fuori? Non so perché... Perché ne mandano neanche, la cosa da ah, c'è la panica che si chiede il monaco, guarda le condizioni di questo. Sì, per chi ha passione per il vintage vanno anche bene, però ripeto, hanno solo 22-23 canali, no? Non ne vale la pena, sono un po' vecchio ormai, poi prendono anche abbastanza QRM, no? A me non mi piacciono più, infatti io me ne sono disfatto di tutti quelli che avevo vecchi, per cui non mi interessano più. Cioè, anche la cosa, la stampa del 54, è molto molto insomma, se vedete che c'era dentro qualche cantina, aprendo l'auto, che prima di accendere naturalmente si via. Per vedere dentro come sono messi, questa neanche cosa di alimentazione, cioè. Cicalino hanno cicalino, hanno, non lo so, e anche quello prova a funzionare, fallo funzionare il cicalino, vedere se funziona. Il cal, il cicalino che ha le 50-24. Sì, ce l'hanno, sì, funziona. Allora, l'altro è un lattaglietto, sì, HB23, HB23, ce l'ho anch'io, anche quello, ce l'ho. Aspetta, devo sfruttare un po' di prodotti, insomma, da questa parte. Ma con la vite riesco a rivistare, probabilmente c'è la musica, quella la fotografia. Chi c'è la serie di nel sottomarino? Vedrai che così si molla. Guarda la foto, dopo dell'altro avevo terminato. Proprio ieri ho aggiustato una radiolina di quelli con la radio digitale, con l'orologio digitale, anzi non con la radio, con l'orologio digitale. Facevo un sacco di scariche, non finivo mai, ho guato il dutto, non si mette a posto. Gli ho sfruttato quello, gli ho sfruttato, e va benissimo, naturalmente l'ho pulito perché è olioso, un po' olioso. Però i contatti te li pulisce bene, non fa cortocircuito, non fa niente. A differenza del prodotto che si usa in elettronica, eccetera, questo va bene ugualmente. Voce bassa da lontano, non ti sto sentendo bene. Che uso o il propilico o il pulitore per contatti? Il pulitore per contatti, te lo sto dicendo, quello l'avevo finito io. Però anche questo, se utilizzi questo in mancanza dell'altro, va ugualmente bene. Anche se poi vuol dire pulire perché è un po' olioso, però il contatto che deve ripristinare te lo ripristina tranquillamente, non c'è problema. Ma non va bene, per pulire no. Per pulire il WD-40 è meglio non usarlo, perché è oleoso, mentre il pulitore per contatti è a secco, diciamo così, asciuga subito, pulisce e asciuga, capito? Meglio evitare il WD-40, finché sono vitti è un conto, ma sull'elettronica o i potenziometri è meglio evitare, bisogna passare prima il pulitore per contatti. Lo so, ma siccome l'avevo terminato, non l'avevo, finito, non ne avevo più. Adesso uso quello. Usato e va bene lo stesso. Naturalmente poi deve pulire, deve distruggere e pulire, però all'interno dove c'è il contatto te lo disossida e va bene. L'interessante è che poi lo pulisci tutto attorno, no? Bene. Capito? Va bene, d'accordo, a dopo. Vabbè, Billy, su che andiamo? Billy, oi oi. Luca, Luca, ci sei? Luca. Chi è avanti? Avanti con la portante, chi è? Avanti, avanti, bell'agno, tutti avanti. Se stai ascoltando, se stai ascoltando, sto trasmettendo con la KB23 adesso. Chi è avanti? Non mi senti? Sì, sì, sì. Sei troppo basso, no? Non sai dove andò, bene. Ciao Giulio. Ciao. Chi sei, Graziano, sì? Natalino sono. Ah, no, perché ti sto ascoltando con un altro bambino. No, stavo aspettando a Luca che volevo fargli sentire questo, che lui ne sta preparando uno uguale. Ho capito, vabbè. No problem. Io ho acceso adesso perché sto facendo Roma e sono rientrato adesso. Ho acceso, ho sentito a te. Sì, sì, sì. sta usando un HB23 vecchissimo di 40 anni fa o 45, forse anche di più anche, però in buone condizioni, dai, già funziona, visto che mi stai rispondendo vuol dire che già funziona. E ha voglia che funziona, ma forse c'è uno sotto che sta mettendo la portante, o che non c'è di radio magari. Va bene, riprendi tu, perché se ci sono io non entra Luca, capito? Che si è offeso con me, perché si è offerto Franco di piazzarmi l'antenna, io gliel'avevo detto, se devo chiamare il camion col cestello ti chiamo, però chi tu è entrato da Ravottola, non ha già vado un camion, però è tutto fisso rumattesi e ci bisogna e non entra, quindi io me ne vado in buon ordine, così almeno ti risponde. Ehi, vabbè, lo facciamo i bambini, che ormai siamo già un po' all'età avanzata, non c'è bisogno di fare queste cretinate. Vabbè, no, siccome tu ne stavi parlando uno uguale, glielo voglio far sentire, se le piace, è un vecchissimo HB23 di 45 anni almeno sarà, insomma degli anni 70 questo è mio. Sì, lo so, che vuoi che ti dica, ce l'ho anch'io un 23 canali, il giorno che lo trovo ce l'ho messo dentro qualche posto. Lo attacco e te lo faccio sentire. È un 23 canali quartato, è di quelli vecchissimi. Non mi ricordo manco che marca è. Sì, la HB23, la Fayette, questo così. Sì, no, funziona bene, dai, sto usando un microfono palmare, quelli con l'alimentazione da una batteria da uno e mezzo. Un microfono adattato, però visto che va bene, la radio è buona, sì. Sì, anche troppo rimbombante, dovresti abbassarla magari un po', perché è rimbombante come radio. Allora l'ho abbassata adesso, perché alla rotellina questa era molto, molto alta, adesso l'ho abbassata, così dovrebbe andare meglio. Sì, infatti, adesso se entra Luca ti dà un controllo anche lui. Ancora vignola. Allora, e se invece Luca, no, tu hai detto che tu vero invece non sei a quel senti. Luca, se sei tu non esce, non sta uscendo, se sei tu non sta uscendo. Natali, quando mi mandi i messaggi, siccome ce l'ho dal tablet, non è sempre che io lo accendo presto la mattina, ma già l'ho acceso che era quasi l'una oggi e poi ti ho risposto. Ho capito, e no problem, io saluto a tutti, capito? Ok. Andame, c'è problema. Questo penso che dia all'incirca 3 watt, non di più, sono di vecchissimo stampo, però funzionano bene. Ho anche molti quarzi ho anche. Attendiamo che ho tutta la serie completa per questo tipo di malattino. Io ce l'ho questo 23 canali, ma non mi ricordo dove l'ho messo, capito? E adesso io questo l'ho tolto fuori, ma ce lo rimetto di nuovo dove era prima, perché non lo uso mai. Però diciamo che ce l'ho e lo tengo, anche perché me l'aveva regalato Claudio qualche anno fa, 4 anni fa, 5 anni fa, più o meno, adesso di preciso non ricordo, ma me l'aveva regalato lui. Ho capito. Vabbè, dai. Io mi dedico ad altro. Mi sto rinnovando anche il porto d'armi, se no non ne togliamo più, perché dice che non si possono più tenere le armi senza porto d'armi. Oppure ci vogliono tutti i fogli e ogni 5 anni devi dare i fogli come quelli del porto d'armi. Se permetti mi rinnovo il porto d'armi. Se voglio andare a per allora a fare due tiri ci cavo, se no ti chiede a manera verso le cose non puoi andare. Quello che stai emergendo, quindi sto preparando tutta la documentazione, dai. Ci sentiamo alle prossime giù. Ok, d'accordo, alle prossime. Allora, lei Emilio, se ce l'hai, per quale motivo lo devi tenere in sorpreso? Così almeno se ci sale il tizio di usarlo, di andare a caccia, lo puoi usare, non c'è problema. Fai bene, rinnova, rinnova, è sempre meglio averlo sempre in regola il porto d'armi. E tanto se non lo rinnovi ti sequestrano quello che hai e quindi non fa. Vabbè dai, ci sentiamo giù. D'accordo, ci sentiamo, ciao Natali, ciao. Luca, è bello, ma rispondi. Attenzione che alle 10 c'è qualcuno. E lei chi vuole? A Tattalino, c'è Tattalino? Sì, è qui. Attenti che glielo dico. Beh, ho finito adesso Tattalino. Non sono potuto entrare prima perché stavo facendo un casino di roba. Uff. Ogni tanto mi do. Anda bene Meda. Chi è? E non è entrato nessuno. Mimì curiosa, lei vuole sapere chi sono. Oh, è mio marito. Poco fa ho sentito a Giulio. Ho sentito che stava provando un apparato. E dove era qua, su 10? Sì, signore. E poi se n'è andato così. Vabbè. Ogni tanto bisogna far riscaldare questi apparecchi. Vedi, adesso ho tre pensi, ma trovo bene. Se no la buia si faccia d'oro. Sì, infatti. Cappa, cappa. E ieri c'era Franco, ma io purtroppo Dio, stavo facendo un contest ed ero in coda per cantare. E vabbè, tanto quei contest lì, vabbè, si sa che sono già pilotati, dai. Sono già pilotati, sanno già chi deve vincere, ma per partecipare. Era in coda. E niente, quindi ho dovuto mollare. E infatti. No, io ho parlato con Franco sul 23, ieri sera. Ma magari c'è qualcuno, aspetta un attimo ancora sul 23 se c'è gente. E sul 23 entra sempre Gian Maria, entra Tore, Franco sul 23, qualche volta Marino, ho sentito. Basta entrare sul 23, quando non c'è nessuno qua si entra dove c'è gente, tutti i canali sono di tutti. E infatti l'altro giorno ho parlato sul 12 con altra gente, perché erano lì fino a tardi, siamo stati parlando, ma vediamo un po' cosa vuoi che ti dica. E c'era stato Franco Di Sorso e coso, come si chiama? Non mi viene il nome. E c'era Gavino e Tino Muscolo pure sul 12. E stavo parlando con loro. Ma di notte è tardi. E fino a, siamo stati fino a tardi, me ne sono andato prima io di tutti perché ero stanco e mi volevo sdraiare un po', capito? E allora me ne sono andato. Vabbè. Ciao, va bene, dai. Non c'è problema. Dove c'è gente si entra. Naturalmente se le persone se ne vanno in altri canali perché magari vogliono starsene soli. Ehi, boh, non lo so. Vabbè, un attimo che non sono fatto. Oh, yeah. Ma te lo ricordi la volta che mi hai messo quegli elettro di quella roba che l'hai messo a manetta e mi hai fatto vedere i selli, non so se era una. Oh già. Aspetta che devo spegnere l'apparecchio. Ma da lì mi senti? Sì signore. Ripetimi l'interrogativo, non capiato, non copiato. Quello che manda gli impulsi elettrici. Ma dai, te lo ricordi quell'apparecchio che avevi tu, che l'avevi messo a manetta e mi ha fatto vedere i selli? Sì, ne ha trovato uno di quelli piccoli, Adriano, e lo sta facendo a Concetta. Però glielo mette a minimo, no? Come ti hai fatto tu, no? Sta facendo l'apparecchio modificato. No, quell'apparecchio che manda gli impulsi, né? Quello che ci avevi tu. Ah, ho capito, quello che avevo comprato ai cinesi. Quello lì poi l'ho dato a una ragazza che ho avuto, ha detto che era tutto dolore, gliel'ho fatto provare, di che bello, alla fine ho detto va, prenditelo, te lo regalo. Canta io con due batterie. Cazzo, a me mi hai fatto vedere i selli da perché mi hai attaccato, mi sa. Mi non te lo mettere tu, Natalino, che problemi al cuore, quelli lì quando c'è problemi al cuore non devi metterli. Ma così è. Io lo volevo usare per la gamba. No. C'è anche scritto che chi ha problemi al cuore non deve usarlo, perché dà quegli impulsi forti, capito? E l'avrei comprato, se lo trovo me lo ricompro io, perché sono tutto a dolori. Vabbè, allora non ne uso io, dai. Ho detto, dove l'hai comprato, Natali? No, l'ha portato Adriano, l'ha trovato. Ah, Adriano, cazzo, magari. Sì, autofulminato, Adriano. Se non muori fossi, io, quando avete tutta quello misto là che fa massaggi, dare scosse, eccetera, quello lì è un bel forte. Me invece, quando si può mettere che per i dolori. Per i dolori, sì. Qua specialmente. Va bene già. Dai, io ti lascio che devo mangiare, che mi devo pigliare la bacchina. Allora, Natale, togli. Sentiamo alle prossime, più tardi magari. Prossimo 23 quando ho finito di mangiare. Io provo a mangiare molto. Perché tanto qua non c'è nessuno. È un canale di molti e non se ne sono accorti ancora. Io vabbè, tanto per far funzionare gli apparecchi, almeno girano un po'. Adesso ho attaccato l'altro per farlo girare, perché da un po' che non l'attaccavo. Sì, lo attacco ma non ci parlo, quindi è attaccato ma non ci parlo. Va a volare la salina, me la carica quando la fai, non che tu, io vado a portare il cane, poi ceno e mi guardo il televisore, non c'entro. Ciao già, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, là. Antonella, il 23 nello stesso tempo. Ci sentiamo, là. Antonello. Chi è? Dammi un controllo di segnale. Fai passaggio che te lo subito, non ti preoccupare, tu fregatene. Siamo tutti e due nascosti. Sì, ti ascolto. Dammi un controllo di segnale. Quanto mi sto arrivando? 9:15, sì, radio 5. Grazie, Antonio. Grazie. Ciao, domani. Ma come parli ti conosco? Ma non è che sei Marco, no? No, non sono Marco. Già, ci sentiamo, ciao. Oh, sei Marco. Quindi, chi diavolo sei? Mi metto il controllo. Comunque sono 9:15 qua. Ciao, ciao. Ciao, ciao, c'è problema. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, sono qua, io sono qua.